un papero germano, decise che la vita dovesse avere un senso in più per essere vissuta. E allora fece fagotto e insieme ad un leprotto, deciso e fiero, il duo si incamminò. Sul fiume, tra un sasso ed una roccia, seduto a far bisboccia, trovarono un ranocchio grasso e stanco di dormire. Disser di partire e come niente fosse, deciso e fiero il trio si incamminò. Nel bosco trovarono un procione, gli dissero: coglione, tu sprechi la tua vita, invece noi andiamo dal saggio. Egli darà risposte a tutti i tuoi perché. Deciso e fiero il quarto li ascoltò. Viaggiarono per lunghi mesi e anni, tra stenti e mille affanni, facendo di proseliti una folta e ricca schiera. E avevan la bandiera col simbolo Bordeaux, ma dirvi cosa fosse disegnato io non so. Comunque di gran lena, cantando a squarciagola un ritmo un po' retro. Deciso e fiero il gruppo continuò. Un leprotto ed un ranocchio, un procione ed un cinghiale, un tarlo, un bruco, un fuco, un merlo e un pallido orsacchiotto, un prete ed un finocchio giunsero al cospetto del grande vecchio saggio del Tukul. Prese parola un tordo, un poco cieco e sordo, e disse: o grande saggio, nel mese prima di maggio venimmo tutti assieme perché vogliamo sapere il senso della vita. E tu ce lo dirai. Su un faggio sedeva il grande saggio, che un attimo pensò, ma senza dubbi fece un gran respiro e poi parlò, scandendo le parole, gesticolando molto, aprì le labbra e questo rivelò. Curvina, sa stavai a plava, i su cosa sbaccia, sa masconde da brassi e peder dobro. Nessuno capì un cazzo, e in preda all'imbarazzo, spennarono il papero.